Minerva. Approfondimenti culturali quotidiani. Perché la cultura serve a non servire. E oggi iniziamo addirittura con un minuto d'anticipo, ore 12:29. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko 103.1 FM. Benvenuti e benvenute in una nuova puntata di Minerva, il format di approfondimenti culturali, di interviste che hanno a che fare con il tema della cultura. Si parla di libri, si parla di fumetti, di cinema, di teatro, insomma, chi più ne ha più ne metta. Siamo in onda insieme da mezzogiorno e mezza fino alle 13 per questa mezz'oretta di chiacchiere appunto sul tema della cultura, che si sviluppa in tantissimi ambiti diversi, per ascoltare anche ovviamente della musica e per parlare un po' insieme. Oggi siamo già arrivati a giovedì 21 gennaio, ben oltre la metà di gennaio. Mi sembra incredibile che questo 2020 stia già scorrendo così tra le dita delle nostre mani. Ma nel frattempo, prima di anticiparvi qualche argomento di cui andremo a parlare appunto in questa puntata di oggi di Minerva, vi volevo ricordare ovviamente i nostri contatti e partiamo dal classico numero di telefono. Potete mandarci un semplice SMS oppure un messaggino su WhatsApp o anche su Telegram. Il numero è sempre quello, 333 180 9494. Mi raccomando, vi aspetto qui in diretta e leggo subito i messaggini che mi mandate. Il nostro sito, che è www.radiocittafujiko.it, purtroppo continua ad essere, diciamo, fuori uso, un po' offline. Non riusciamo a caricare i nostri articoli sul sito, ma abbiamo riattivato il servizio di streaming, quindi se siete abituati ad ascoltarci appunto in streaming online e non in FM, oppure se fuoriuscite così dai confini bolognesi, potete continuare ad ascoltarci su www.radiocittafujiko.it. Nel frattempo continuiamo a rimanere attivi sui nostri canali social, quindi Facebook, Instagram, Twitter e anche il canale YouTube. Seguiteci sempre anche lì, iscrivetevi, così che potete rimanere sempre aggiornati sui nostri approfondimenti, sia culturali, ma anche ovviamente si parla di tanta attualità e politica e la musica, perché in una radio non può mai mancare. Ma di che cosa ci occuperemo oggi in questa puntata di Minerva di giovedì 21 gennaio? Innanzitutto parleremo di un contributo realizzato da Giovanna Fiorentini, che è l'ideatrice di Bimbo Arte. Bimbo Arte organizza una rassegna artistica dal titolo Immaginare il futuro, quindi si parla di bambine. Genitori all'ascolto, addrizzate le orecchie. Immaginare il futuro è un'iniziativa promossa dall'associazione appunto Bimbo Arte, e quest'anno dal 23, quindi fra qualche giorno, fino al 31 gennaio presenterà la sua quinta edizione. L'idea è proprio nata dal desiderio di organizzare diverse attività indirizzate a bambini e bambine di tutte le età, ma anche adolescenti e alle loro famiglie. Quindi dal 23 al 31 gennaio a Bologna, l'associazione, in collaborazione con Genus Bonone, Musei della Città di Bologna, Alce Nero, Natura Sì, Città del Sole e il Museo Mambo, offrirà tantissime attività, tutte a sfondo artistico. Quindi mi sembrava una bella iniziativa anche per i più piccini, che, come dico sempre, secondo me di questi tempi si annoieranno abbastanza a casa. Il calendario appunto partirà il 23 gennaio con una visita a Bologna di 2000 anni fa in realtà virtuale. Invece per la famiglia ci sono anche diversi laboratori sulla fotografia, sulla pittura, sulla creatività, insomma veramente tante attività di cui ne parleremo sicuramente meglio dopo, insieme al contributo di Giovanna Fiorentini, che è proprio l'ideatrice di Bimbo Arte. Vi dico anche già da subito, se vi volete segnare il sito www.bimboarte.it, perché tutte le attività richiedono la prenotazione visti i posti limitati, e si possono trovare appunto sul loro sito, che è www.bimboarte.it. Ma in questa nuova puntata di Minerva non mancherà ovviamente la nostra agenda degli appuntamenti, quindi tutti gli eventi che si svolgeranno purtroppo in modalità online. Di oggi, giovedì 21 gennaio, ce ne saranno di varie tipologie, da seminari, incontri con eccellenti ospiti come ad esempio Corrado Augias, di nuovo Camillo Bortolato, insomma Vera Gheno, con tantissime attività da poter fare, come dico sempre, comodamente sul divano di casa, che alla fine, se proprio vogliamo vedere il lato positivo, insomma, di questo periodo, è che ce ne possiamo stare più comodi, ecco. Ma oltre alla cultura non manca la musica, perché come sempre le puntate di Minerva sono ricche di bella musica da ascoltare. Oggi, un po' seguendo la scia del rock and roll che mi precede il giovedì mattina con This is the Rock and Roll Radio, ho voluto inserire uno dei miei gruppi in assoluto preferiti. Li ascolto praticamente da quando sono piccola, perché mio padre era un grande appassionato. Sto parlando dei Red Hot Chili Peppers. Per chi non li conoscesse, sono un gruppo musicale rock statunitense, formatosi nel 1983, composto dal il portavoce, che è anche la voce, cioè Anthony, Flea al basso, John Frusciante alla chitarra, che poi sappiamo tutti che va e viene, diciamo, dal gruppo, e Chad Smith alla batteria. Nella loro carriera hanno mescolato tantissimi generi, tantissime canzoni, tra cui funk, hip hop, rock, rock psicadelico, insomma veramente tantissimi generi diversi, e soprattutto sono sempre stati improntati verso le esibizioni dal vivo e all'improvvisazione. Hanno venduto più di 80 milioni di dischi nel mondo, di cui 33 milioni solo negli Stati Uniti. Detengono anche il record per il maggior numero di singoli al primo posto della Alternative Airplay, classifica stilata dalla rivista Billboard. Insomma, di premi ne hanno vinti tantissimi, sono nella Rock and Roll Hall of Fame, veramente chi più ne ha più ne metta, uno dei gruppi sicuramente più conosciuti. Ho voluto fare proprio oggi un percorso all'interno dei brani, dei dischi usciti nel corso degli anni dei Red Hot Chili Peppers, quindi partiamo proprio dai primi. Nel 1989 uscì Mother's Milk, uno dei singoli di maggior successo di questo album fu Knock Me Down, e adesso ce lo andiamo ad ascoltare qui in diretta su Radio Città Fujiko. Your friends that you're inside. Questi erano i Red Hot Chili Peppers con Knock Me Down, che ci riportano in diretta su Radio Città Fujiko 103.1 FM. E mettiamo un attimo da parte il discorso Red Hot, che appunto riprenderemo dopo mano a mano che ci ascoltiamo i loro brani, alcuni tra i loro brani più famosi all'interno della loro discografia, per tornare a parlare del contributo, dell'approfondimento di oggi. Come vi anticipavo appunto prima, all'interno del menu di questa puntata di Minerva si parlerà un po' di bambini e di progetti artistici dedicati a loro, e lo faremo insieme al contributo di Giovanna Fiorentini, che è l'ideatrice di Bimbo Arte e di questo progetto che si chiama Immaginare il Futuro. Immaginare il Futuro è appunto un'iniziativa promossa dall'associazione Bimbo Arte, e quest'anno dal 23 al 31 gennaio presenterà la sua quinta edizione. L'idea è nata, come vi dicevo prima, appunto dal desiderio di organizzare diverse attività indirizzate ai bambini e bambine di tutte le età, ma anche ai adolescenti e alle loro famiglie. La rassegna d'arte cerca di costruire proprio degli spazi di socialità grazie alle diverse attività culturali che propongono, quindi da laboratori, atelier, vari corsi o programmi. Tutto ovviamente accessibile sulle piattaforme online, e altra informazione molto importante, totalmente gratuito. L'obiettivo non è solo quello di costruire una vera e propria partecipazione attiva del territorio locale, quindi del territorio bolognese, insieme ai bambini e le bambine, ma anche quello di valorizzare le capacità personali di questi bambini e sensibilizzare sul tema dell'ambiente e dell'arte. Appunto, il calendario partirà dal 23 gennaio per le scuole con una visita a Bologna di 2000 anni fa, in realtà virtuale, in collaborazione con History Lab, mentre per le famiglie anche qua sono tantissime le attività, tra laboratori sulla fotografia, sulla pittura, sulla creatività. C'è anche una parte relativa alle, come dire, alle mamme in dolce attesa, con la realizzazione di uno scrapbook, cioè un album fotografico realizzato con il metodo Montessori. Tutte queste informazioni e tanto altro potete trovarle sul loro sito, che è www.bimboarte.it, e mi raccomando, tutte le attività richiedono la prenotazione, visto appunto i posti limitati, e tutto questo si può trovare sul loro sito www.bimboarte.it. Ma direi di andare a sentire appunto il contributo di Giovanna Fiorentini, l'ideatrice di Bimbo Arte, che ci racconta ancora da più vicino questa esperienza e questa sua idea. Anche quest'anno è stato entusiasmante realizzare il programma di Bimbo Arte. Ogni anno è una scoperta anche per noi ed è sempre bellissimo. Quest'anno cominciamo la programmazione il 22, e abbiamo sempre la programmazione per le scuole e la programmazione per le famiglie. Partiamo con quella per le scuole. Abbiamo una bellissima visita in diretta della Bologna di 2000 anni fa. È un appuntamento unico con History Lab. Questo è realizzato per una classe quinta e si dovranno prenotare. Per le famiglie abbiamo diversi laboratori. Alcuni li ha anticipati Beatrice, sono bellissimi. Abbiamo un laboratorio Testa fra le nuvole con Noemi Bermani di Spazio Labo, abbiamo gli indizi fotografici di Alessandro Boni domenica 24, abbiamo questo laboratorio che è una novità per noi, perché noi abbiamo sempre fatto una programmazione che partiva dai bimbi nella pancia e le donne in gravidanza fino più o meno a 10 anni. Quest'anno apriamo agli adolescenti con la fotografia contemporanea ai tempi di Instagram insieme a Spazio Labo, da non perdere anche per i bambini più grandi. Gli indizi fotografici ve li ho già raccontati. Abbiamo un laboratorio venerdì 29 alle 18 con immagini e tinture vegetali. Realizzeremo con gli scarti alimentari le tinture per poi realizzare e colorare le foto. Abbiamo un'attenzione particolare anche per le donne in gravidanza e bambini appena nati, è sempre stata una nostra peculiarità. Quest'anno con Cristina Venturi dell'associazione Montessori di Bologna realizziamo questo scrapbook e lo costruiamo proprio col metodo Montessori. Sono delle memorie, delle foto, delle emozioni delle mamme per tutto il percorso

Ore 12:50, torniamo in diretta su Radio Città Fugico 103.1 FM. State ascoltando Minerva con la voce e la regia di Rachele Copparoni. E questa era Otherside per continuare il nostro tour, il nostro percorso di oggi dedicato appunto alla discografia dei Red Hot Chili Peppers, per quanto si possa fare ovviamente in mezz'ora di diretta. Se prima avevamo ascoltato un brano del 1989, oggi ora ci siamo spostati 10 anni più avanti, perché Otherside è il terzo singolo estratto dal settimo album in studio dei Red Hot, Californication, uscito proprio nel 1999, quindi esattamente 10 anni dopo. Questa canzone, come la prima, quindi Knock Me Down, è stata probabilmente dedicata al loro defunto membro Hillel, penso che si pronunci così, Slovak, che appunto morì di overdose, ecco. Comunque, al di là della dedica di questo brano, sicuramente una delle canzoni più conosciute, più famose dei Red Hot, è stata numero uno del gruppo sulla classifica di Alternative Songs nell'anno in cui è uscito. È stato anche il secondo singolo più alto in classifica di tutto l'album Californication, raggiungendo la numero 14 nella classifica degli Stati Uniti, sempre appunto nell'anno in cui è uscito, quindi il 1999. E ci prendiamo un'altra pausa, diciamo così, dal discorso che stiamo facendo sui Red Hot Chili Peppers, che ci stiamo ascoltando qui in diretta su Radio Città Fugico, per voltare momentaneamente pagina e tornare al mondo della cultura con la nostra agenda degli appuntamenti. Quindi tutti gli eventi che ci saranno appunto oggi, giovedì 21 gennaio, ovviamente purtroppo ancora non in presenza, ma tutto in modalità online. E partiamo dalla presentazione di un libro, perché la libreria Renap presenta Socrates, l'immortalità della rivolta, appunto oggi alle ore 18 sulla pagina Facebook della libreria Renap. Si presenterà Socrates, l'immortalità della rivolta, edito da Becco Giallo e Marco Gnaccolini, con Cosimo Miorelli, che ci racconterà insieme la vita, la morte e i mirabolanti dribbling di un campione che solcava a modo suo il terreno da gioco. Il tutto, quindi l'incontro, sarà moderato da Thomas Govoni. E passiamo ad un altro evento: il Centro Studi Postcoloniale e di Genere per il ciclo di seminari Borderscape, oggi alle 14:30 presenta l'incontro con le autrici di Femminismi Futuri, Teorie Politiche e Fabulazioni, a cura di Lidia Curti, uscito nel 2019, quindi ormai qualche anno fa. Introduce Silvana Carotenuto, difficilissimo questo cognome, e interverranno tutte le autrici di Femminismi Futuri, quindi Marina Vitale, Lidia Curti, Olga Solombrino, Tiziana Terranova, Antonia Anna Ferrante, Roberta Colavecchio, Alessandra Ferlito, Samantha Portanuova e Luciana Parisi. C'è un link Zoom per poter partecipare all'incontro se siete interessati alla presentazione di questo libro, e lo potete trovare appunto nel Centro Studi Postcoloniale e di Genere. E passiamo a un altro evento che vi avevo un po' anticipato, un po' spoilerato all'inizio, perché si tratta di nuovo di Corrado Augias, che non come ieri non parla di nuovo con Alessandro Barbero, ma questa volta è solo ed è l'ospite del primo incontro del 2021 di Bo Culture. Il noto giornalista, scrittore e conduttore televisivo riflette insieme al rettore Rosario Rizzuto, alla prorettrice Annalisa Obo e al filosofo della scienza Telmo Pieviani sugli incessanti cambiamenti della nostra società. Durante l'intervento si racconteranno alcune delle imprese di padovani eccellenti attraverso delle recenti pubblicazioni. L'appuntamento sarà anche dedicato a Pietro Greco, caporedattore del magazine dell'Università di Padova, recentemente scomparso. L'evento sarà appunto in diretta streaming sulla pagina e sul canale YouTube dell'Università degli Studi di Padova alle ore 17, quindi anche qua siamo un po' usciti dai confini bolognesi per arrivare in Veneto. E concludiamo con gli ultimi due eventi. Il primo riguarda il Centro Studi Ericsson, che presenta l'evento La lettura come esperienza di classe con Camillo Bortolato. Insieme al maestro e pedagogista, appunto, Camillo Bortolato, si scopriranno novità editoriali con tanti suggerimenti da mettere subito in pratica. E concludiamo con un appuntamento di ERT, quindi di Emilia Romagna Fondazione Teatro, alle ore 19 in diretta Facebook su Dire Fare Uguale Fondare. Ci sarà l'evento Città Inclusive, in dialogo con le giovani studentesse del liceo Galvani di Bologna. Ci sarà Vera Gheno che ragionerà insieme a loro, appunto, sul significato della parola inclusione. E si sa, insomma, che Vera Gheno è sempre una certezza, ecco, quando si tratta di questi argomenti, quindi altro approfondimento da seguire volentieri. E sono già le 12:56, io pensavo di avere del tempo per farvi ascoltare l'ultimo brano che avevo selezionato dei Red Hot Chili Peppers, ma a quanto pare non abbiamo più tempo, quindi ve lo farò ascoltare più avanti, magari domani o settimana prossima, quando realizzerò, insomma, un'altra playlist dedicata a loro, perché sono decisamente uno dei miei gruppi preferiti. Così ve lo anticipo, vi volevo far ascoltare Dark Necessity, un album pubblicato nel 2016, quindi, insomma, uno dei più recenti, per così cronologicamente parlando seguire, insomma, una linea dei debutti e di tutto ciò che è uscito in ambito, appunto, dei Red Hot Chili Peppers. Ma niente, non abbiamo più tempo, e quindi sarà per domani o per settimana prossima, perché, appunto, noi ci sentiremo sempre domani da mezzogiorno e mezza fino alle 13 per questa mezz'ora di diretta insieme. E che altro dirvi? Vi devo salutare, quindi una buona giornata, un buon pranzo. Oggi purtroppo non c'è il sole, quindi mi rimangio tutto quello che ho detto, che era un gennaio così soleggiato non si era mai visto a Bologna. Ho fatto in tempo a dirlo che oggi c'è una nebbia da portar via, ma va bene così. Speriamo che domani sarà una giornata migliore. Nel frattempo godiamocela lo stesso. Ancora un buon pranzo e una buona giornata. Un saluto da Rachele a tutte e a tutti.